Claudio Bini della società Silfi, la società che illumina la città di Firenze. Si è parlato oggi molto di illuminazione, di innovazione tecnologica, ma come si sposano tutte queste novità, i LED luminosi, con una città rinascimentale come Firenze e l'Italia ricca di queste città con queste tipologie? Ma io credo che questo si possa coniugare, tra l'altro è la richiesta pressante che anche Silfi ha fatto ai produttori per coniugare un prodotto che potesse rispondere a questo tipo di esigenza. Per esempio, noi abbiamo tardato nell'applicazione perché abbiamo voluto fare delle sperimentazioni e abbiamo voluto anche avere la certezza che l'applicazione di questo prodotto potesse garantire per esempio quella resa cromatica che la luce deve avere per una città storica e d'arte come Firenze. Proprio in questi giorni noi abbiamo realizzato un intervento che comunque costituisce una sorta di laboratorio su un monumento importante che è il Ponte Santa Trinita, dove ecco lì potremmo vedere come anche questo LED, questo sistema di luce può essere modulato da una luce eccessivamente bianca a una luce più calda e attenuata sia nell'intensità luminosa che appunto nel colore, nella resa. Quindi la proiezione futura è che questo si potrà coniugare e potrà dare dei vantaggi sia in termini di efficienza sia in termini anche di costo da un punto di vista dell'esercizio, e quindi un vantaggio per le nostre amministrazioni. In un momento come questo direi che non è poco, è un fattore importante che dobbiamo essere sensibili trattandosi proprio di risorse pubbliche. Sarà possibile ed eventualmente con che tempistica arrivare anche a Firenze ad avere quella che si può chiamare un'illuminazione domotica stradale? Beh, questo è sempre da coniugare e da ricondurre anche alle risorse che le amministrazioni, che comunque nel nostro paese, vengono destinate all'illuminazione. Io spesso sono solito dire che l'illuminazione pubblica in Italia è un po' una cenerentola, cioè si tende sostanzialmente ovviamente a cogliere l'efficacia e l'efficienza nel momento in cui si fa un'accensione, però poi non si creano le risorse per magari a modernare. È ovvio che, come abbiamo visto in questa giornata di oggi noi abbiamo le possibilità di creare delle innovazioni che possono portare a un uso più funzionale, da lampioni intelligenti che si possono accendere o spengere, pensiamo a un parco che magari può essere sottoutilizzato. Noi oggi per esempio, basta pensare in contrapposizione, che per risparmiare energia alle 11:15 e sottolineo alle 23:15 spengiamo metà quasi dell'illuminazione cittadina. Poi qualcuno lamenta che Firenze magari è buia, non è così. Cioè, quindi noi dobbiamo superare questo gap, chiamiamolo così, e puntare a questa innovazione. Noi pensiamo che oggi, non so, le statue che sono illuminate sul ponte a Santa Trinita utilizzano un impiego di 3 watt. Quindi è interessante questo impiego, e pensando che la postazione è in alto non si creano neanche poi disservizi, perché si parla che oggi una lampada LED debba durare almeno circa 10 anni di vita, considerato le 4.000-4.200 ore che sono le ore che compongono la notte. Lei mi ha preceduto la domanda sul risparmio energetico dalle 23:15, allora le chiedo una cifra, diciamo, un po' indicativa per sostituire le lampade in una città come Firenze, quindi con quasi 400.000 abitanti, con i nuovi LED. Quanto a occhio potrebbe venire a costare, per capire effettivamente poi che necessità di risorse economiche ci sono? Beh, è una domanda a cui non è facile rispondere per diverse ragioni. Intanto perché non è così semplice intervenire modificando il corpo illuminante. Oggi l'applicazione dei LED necessita che l'infrastruttura sia adeguata a questa nuova applicazione, e quindi in certe situazioni noi potremmo anche semplicemente intervenire sostituendo tutto curto il corpo illuminante, come già in qualche luogo abbiamo fatto. In altre occorre ridisegnare, ricostruire la geometria e l'utilizzo dell'illuminazione, e quindi questo a costi più elevati. Diciamo che mediamente oggi si può parlare con cifre che possono oscillare dai 1.200 ai 1.500 o 2.000 euro a seconda appunto dell'intervento che noi dovremmo fare. Quindi sono interventi che vanno fatti su base programmata, anche perché forse non avrebbe neanche senso creare una trasformazione così immediata. Noi dobbiamo anche avere la consapevolezza che questi nuovi prodotti sono efficaci. Diciamo che i prodotti che oggi noi riteniamo che possano avere un'applicazione stradale, diciamo, di un certo livello, stanno cominciando ad arrivare adesso. Noi possiamo già, i cittadini di Firenze possono avere una conferma di questo, per esempio percorrendo i viali che vanno, diciamo, il viale Giovane Italia, ecco, nei pressi della Nazione, andando dal Lungarno verso Piazza Beccaria, percorrendo proprio a piedi o sulla pista ciclabile si possono vedere due tipi di illuminazione, cioè il primo tratto addirittura un'illuminazione tradizionale con una lampada a scarica, il secondo tratto superando da via Ghibellina si incontrano dei lampioni che sono a LED, cioè sono gli stessi lampioni carrozzati alla stessa maniera però con il motore tra virgolette diverso e anche il consumo, ma direi anche l'efficienza analoga. Ecco, allora nel caso in cui noi dobbiamo semplicemente sostituire, questo è più tempestivo. Certamente lo sappiamo che l'innovazione tecnologica ha sempre un costo superiore nel momento in cui è innovazione, il tempo porterà a ridurre questi costi e quindi noi bisogna coniugare questi due momenti, cioè come dire cogliere l'attimo fuggente per capire qual è il momento migliore per cominciare ad investire pagando il giusto e quindi innovando in maniera intelligente.